Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche. Stasera uno show ma sa che ci becchiamo later. Ho perso la voce, urlargli contro farò playback. Non pensavo a quello che ti ho detto, stavo faded. L'ho fatto soffrire così tanto che ero un hater. Baby, non ci vediamo da un po'. Io l'ho fatta di strada, tu no. Giro sempre mille diverse suite. Vorrei ritornare alla tua maison. Non mi frega se è punto Porsche. Tanto abbiamo raggiunto il top. Non mi chiedere se è tutto a posto. Ho il mondo addosso. Ora che è costosa la mia bottega, babe. Sto con un bad boy che gira in Mercedes Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel del Porsche. Nella bottega back, troppi guai tra me e te. C'è stand by, oh my love. Non guardarmi così che lo sai. Si fa hot la stanza, poi mi sdrai sul tuo bed senza stop. E si fa loco. Non ti vedo più, non ti credo più. Sono in strada, baby, e tu non passi qui. È sempre colpa mia, ma cosa hai fatto? Tu li senti batti, ti ricordi gli attimi. E sembra fatta quando tutto cade. E siamo soli che vogliamo fare. Ed ora tutto cambia, la tua faccia pure. Questo amore stanco, hai trovato le cure, baby. Ora che costosa la mia bottega, back. Sto con una bad di giro in Mercedes Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Non penso alle altre ma soltanto a me e a te. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.